Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata, in compagnia di, signore e signori, Mario Secchi, direttore del Tempo. Chi dirà, secondo voi, dei tanti fatti di questa settimana? Una settimana, diciamolo, particolarmente convulsa e intensa. Scopritelo sabato alle 14, ascoltando Non ci sono più le mezze stagioni, naturalmente su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.